Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Ma perché proprio a me? E perché è arrivato questo dolore così fastidioso proprio di notte? Mi fa perdere il sonno, un po' come il mal di denti. Buongiorno, oggi voglio parlarvi del dolore alla spalla. Eh sì, perché a volte non perdiamo proprio il sonno per questa spalla che improvvisamente inizia a far male. Mamma mia, allora che si fa? Io ho pensato di invitare un esperto per rispondere alle nostre domande, per darci delle indicazioni, per farci capire un po' che cosa può scatenare il dolore alla spalla, per differenziarlo da quello che compare invece al mattino e rende tutto difficile, da infilarsi la giacca, ad allacciarsi il reggiseno, portare le borse della spesa. Buongiorno al dottor Lorenzo Castellani. Adesso mi taccio. Benvenuto. Grazie. Intanto vi racconto chi è il nostro ospite con cui beviamo il caffè stamattina. È il responsabile della chirurgia della spalla, per questo l'ho invitato presso il gruppo di chirurgia articolare ricostruttiva dell'IFCA di Firenze. Notte e giorno. Il dolore della notte non si sa più che posizione tenere. Di giorno un po'. Non dico che sia meno doloroso, ma un po' passa, ce la raccontiamo di più. Ma che cosa ci racconta a proposito il dolore della spalla alla notte? Il dolore notturno è il primo campanello d'allarme, quando qualcosa nella spalla non va bene. E tipicamente si parte la mattina con un dolore molto forte, che magari ci si è trascinato durante il sonno, e via via con le attività si scioglie. Questo in realtà è qualcosa che in parte ci può tranquillizzare. Perché è un dolore spesso infiammatorio, qualche cosa che possiamo riuscire a gestire con alcune abitudini più sane e con delle metodologie semplici per riabilitare, rieducare la spalla, a muoversi meglio. Ad esempio, oltre ad ascoltare tutte le mattine Obiettivo Salute Risveglio, non solo, tutti gli altri appuntamenti quotidiani, che cosa possiamo fare? Dobbiamo cominciare a domandarci cosa facciamo durante il giorno. Se durante il giorno facciamo dei movimenti ripetuti, sì, teniamo la spalla in posizioni elevate sopra il livello del volto a lungo, sì, facciamo tanti movimenti ripetitivi senza magari fare caso alla nostra postura, davanti a un computer per esempio, oppure lavoriamo magari pesantemente tutto il giorno come artigiani o lavoratori manuali pesanti. Io torno la notte, dottor Castellani. A volte cambiando posizione il dolore si attenua, e a volte invece siamo dei tarantolati. Girati qua, gira di là, pancia in su, pancia in giù, il dolore non va via. Che differenza c'è rispetto al dolore che invece sembra più legato alla posizione? Il dolore posizionale durante la notte, quello che cambia con le posizioni che assumiamo, è generalmente un dolore meccanico, quindi un po' più preoccupante. Qualche cosa nella spalla potrebbe essere rotto, non funzionare perfettamente. Quindi meglio avere un dolore tutta la notte rispetto che il dolore che quando cambiamo posizione passa? Mi sta dicendo questo? È così. Purtroppo l'altro tipologia di dolore, quello continuo, è un dolore che ci dà ancora più fastidio perché non ci permette di assopirci o difficilmente ci permette di addormentarci, ma in realtà è più intenso di quello che poi si trova dentro l'articolazione. Magari basta una procedura infiltrativa per avere qualche cosa di veloce come risposta al dolore, o bastano delle applicazioni, uno studio di fisioterapia, delle ginnastiche corrette per tornare a posto. Di giorno, perché adesso la giornata è iniziata, se il dolore mi viene quando muovo la spalla, che cosa mi dice rispetto al dolore invece che è lì, è sordo? Sì, è proprio la compagnia, ci tiene compagnia per tutta la giornata. Che differenza c'è? Quando viene muovendo la spalla, generalmente è colpa del tendine più tartassato della nostra articolazione, che è il sovraspinato, è il tendine della cuffia dei rotatori, che la famosa cuffia dei rotatori è sempre lì. Quindi questo tendine è quello che fa più fatica per farci sollevare il braccio, è la cosa di cui abbiamo più bisogno durante le nostre giornate, è meno nutrito degli altri tendini della spalla, è soggetto a usura e, nelle peggiori delle ipotesi, rottura. Quindi quando è ben associato il dolore a un tipo di movimento che coinvolge il sollevamento della spalla, quel tendine è molto probabilmente implicato nella patologia. E bisogna occuparcene, perché se trascuriamo i messaggi che il nostro corpo ci manda, poi lo so, piano piano magari si aggravano. Invece, se il dolore è sordo, costante, che cosa mi racconta? cominciamo a provare a cambiare le abitudini. Allora lì ci possiamo prendere un pochettino di tempo, proviamo a vedere di risparmiarci un po'. Se lavoriamo col braccio elevato, possiamo cambiare la nostra posizione sul lavoro. Io ho aiutato, per esempio, cuochi con questo problema. Fanno fatica a gestire le preparazioni ai fornelli o al banco e possono usare una pedana. Mettendo una pedana di 10 centimetri, sollevandosi un po', bravo, come posizione, per esempio, bravo, aiuta. La casalinga che stira, sì, l'asse da stiro la può tenere più bassa, in modo da lavorare col braccio un pochettino in una posizione verso il basso. Chiaramente più diventano lavori pesanti è più difficile. Certo. Magari, ecco, fare lavorare gli altri. Questo mi piace. Senta, se invece poi arriviamo alle novità, immagino che ci saranno anche delle novità, ma mi tolga ancora una curiosità. Quando il dolore riguarda non proprio la spalla, ma qualcosa di molto vicino alla spalla, quindi vado dritta, collo, oppure braccio, fino ad allungarsi alle mani, al gomito o addirittura alle mani. Come faccio a capire? Io... a orientarmi. Sono dolori spesso molto simili, quindi anche per noi ortopedici è difficile senza una visita discriminare, però ci sono dei criteri generali. Quello che porta dei formicolii o dei bruciori fino alle dita della mano è spesso legato al collo, a un'infiammazione sulle radici nervose, come la sciatica per l'arto inferiore. Quello che invece si concentra sul braccio, magari sulla parte anteriore fino al gomito, può essere il bicipite, che origina in parte dentro la spalla, quindi è come un campanello d'allarme che ci dice che dentro la spalla qualcosa non va. E quindi è più facile che il dolore riferito al braccio sia di spalla. E voi come fate a capire che cosa c'è che non va nella nostra spalla? Qual è l'esame che permette di fare diagnosi in modo sicuro, risparmiando esami inutili? Noi siamo abituati a leggere tanti esami, spesso più di quelli che ci servono nel nostro studio. Alla fine una buona visita è quella che aiuta più di tutti. L'esame ci serve per avere quella conferma necessaria prima di far perdere il paziente tempo in lunghe terapie che non servono o prima di operare una persona. Quindi diciamo lo spirito dovrebbe essere vedere le immagini per confermare un sospetto che già abbiamo. Certo, tutti siamo impegnati, abbiamo vite frenetiche, dallo specialista è bene con qualcosa arrivare per non doversi sentir solo dire ok, mi serve questo accertamento. Se dobbiamo iniziare da qualcosa, iniziamo dalle cose semplici, che sono quelle meno costose e molto utili affiancate alla visita, che sono la radiografia e l'ecografia. Andiamo ai trattamenti. Non vogliamo andare in sala operatoria. C'è un prima. Ci sono delle novità interessanti che possono aiutare a ridurre il dolore e a, posso dire, curare e risolvere il problema? Sì. Il trattamento fisioterapico è qualcosa di insostituibile nella chirurgia della spalla, nell'affrontare i problemi della spalla, anche senza intervento. Quello che dico sempre ai miei pazienti è ok, io ti tolgo il dolore, posso farlo. Abbiamo cose molto moderne anche per farlo, delle infiltrazioni guidate con l'ecografia per arrivare esattamente al punto che ci serve, con sostanze che non sono più il cortisone di una volta, ma gli acidi ialuronici, i fattori biologici, i PRP, queste sono da una parte, ma senza affiancare a questo, che dà un ruolo migliorativo sul dolore, qualche cosa di riabilitativo, durerà molto poco. Non basta. Non basta, però bisogna affiancando il trattamento con la riabilitazione... È l'arma più potente. Io do uno starter sul dolore con la mia infiltrazione e poi un buon fisioterapista su questo costruisce, perché duri a lungo l'effetto benefico ottenuto artificiosamente con un gesto invasivo. 349-238-6666. Oggi abbiamo parlato di spalla, anche della gestione del dolore durante la giornata. Raccontatemi la vostra, dite la vostra alla Nico. Potete mandare come sempre un messaggio vocale al 349-238-6666. Ultimo giorno del nostro appuntamento con Leonardo Caffo, che è già qui seduto con me. Ciao Leonardo. Buongiorno. Prendila con filosofia questa settimana, i tuoi interventi ci hanno aiutato ad andare un po' in questa direzione, i nostri amici hanno risposto al nostro invito a mettersi in contatto con noi, sentiamo il WhatsApp di oggi. Ho provato in questi giorni a seguire e a prendere i tuoi consigli e a prenderla con filosofia, come dici tu. Ci sono riuscita e un po' no. Cercavo anche di istruire, di dare questi consigli anche a mio figlio sul prenderla con filosofia, però mi sembra più difficile coi ragazzi. Mi daresti qualche suggerimento su come potrei fare? Grazie. Allora Leonardo, sempre più difficile filosofia, pillola di filosofia da spacciare ai ragazzi, allora, adolescenti difficili. Visto che Thoreau lo abbiamo presentato come l'uomo che ha anche ispirato L'attimo fuggente, un film tutto dedicato ai ragazzi, prendiamo la frase più famosa di Thoreau, quella che è letta in quel film, per esempio, la sua più storica. Andai nei boschi perché desideravo vivere con saggezza, per affrontare solo i fatti essenziali della vita e per vedere se non fossi capace di imparare quanto essa aveva da insegnarmi e per non scoprire in punto di morte che non ero vissuto. È una frase che oggi è messa in un pezzo di legno proprio all'ingresso del luogo in cui Thoreau si era costruito la sua capanna. Thoreau sta invitando tutti, i ragazzi soprattutto, perché questa frase l'ha scritto un ragazzo di 28 anni, non ci dimentichiamo, quindi non proprio un signore di 98 anni, sì. Okay? Che di andare nella natura per cercare di imparare dei ritmi diversi. Lui dice: andai nei boschi per non scoprire che non ero vissuto, addirittura. Quindi l'idea di scappare dalla città, di scappare dalla consuetudine, di imparare dagli alberi, dalla natura, dal lago dove lui era andato, altri ritmi, altre forme di stare al mondo. In chiusura di questa settimana, un sondaggio abbastanza diffuso negli ultimi giorni dice che i ragazzi molto giovani sono in grado di distinguere circa 1000 loghi e non più di 50 tra specie animali e vegetali. Ecco, questa è una cosa molto grave, andare nei boschi e imparare a distinguere la natura e un po' meno i loghi potrebbe essere già una buona soluzione a tanti dei problemi che dobbiamo affrontare. Grazie a Leonardo Cafo, tornerà presto a trovarci, noi ci sentiamo presto, comunque se voi volete continuare a dirlo all'amico, e noi siamo qua 349-238-6666. Vi ringrazio, vi auguro un buon weekend, ma sapete che noi ci sentiamo anche domani a mezzogiorno con Obiettivo Salute Weekend e poi la domenica alla tavola della bufala in tavola. Buona giornata, non so se questo sia una minaccia, ma è la verità.